Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Con il decreto dello scorso 10 aprile, oltre a prorogare il lockdown su tutto il territorio nazionale, il governo ha introdotto anche un'importante novità per il settore dei trasporti e della logistica. Nonostante le limitazioni alle attività produttive ancora in vigore, infatti, è stata resa possibile la riapertura dei magazzini in modo da poter spedire la merce in giacenza e di ricevere beni e forniture. Si tratta di un primo passo importante verso il ritorno progressivo alla normalità, identificato con l'avvio della cosiddetta fase 2, a cui si sta già lavorando. Il provvedimento permette così alle imprese di logistica di riprendere una parte della propria attività e soprattutto consente alle aziende di organizzarsi per gli approvvigionamenti e non farsi trovare impreparate per la riapertura. In questo modo, inoltre, sarà possibile sbloccare circa 400.000 container rimasti fermi in alcuni dei principali porti italiani. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica, un mondo che sta ovviamente vivendo con grande attenzione tutte le evoluzioni di queste ultime ore e tutte le riaperture, perché è ovviamente fondamentale, importante anche per questo settore, anche per questo segmento, che le attività produttive vengano riaperte il prima possibile e che le attività riprendano, non fosse altro che per economizzare al massimo le capacità di carico dei veicoli che per ora sono limitate più o meno ai generi alimentari e ai prodotti sanitari. C'è stato qualche giorno fa, qualche settimana fa, un importante provvedimento normativo che ha riaperto sostanzialmente i magazzini, ha sbloccato anche diverse centinaia di migliaia di container, e noi ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite che è Guido Nicolini, presidente di Confetra. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Sì, buongiorno. Quello dei magazzini era in particolare un provvedimento richiesto a gran voce da Confetra, che è l'organizzazione che raggruppa gli operatori logistici italiani e che quindi ha consentito di sbloccare letteralmente un'ampia parte di attività. Sì, noi abbiamo chiesto con forza al governo, al ministro Micheli, al premier Conte questa possibilità di riaprire i magazzini delle aziende che avevano il codice Ateco che non gli consentiva di fare produzione, questo per tutte le merci che erano state ordinate prima del 22 marzo, cioè del famoso decreto. Questo sblocco di fatto ha consentito di poter cominciare a ritirare dai porti i contenitori che stavano comunque cominciando a intasare gli stessi porti, a poter trasferire i contenitori nei punti interni e dai punti interni trasferirli presso i magazzini delle aziende. Questa apertura, secondo noi, consente anche di posizionare le merci presso i magazzini delle industrie, in modo che quando finirà questo lockdown potranno immediatamente ricominciare la produzione, perché in assenza di questi prodotti avrebbero dovuto attendere altri giorni prima di iniziare le loro attività. Ecco, lei ha detto quando terminerà il lockdown, in realtà ormai sono diversi giorni che il dibattito sulla fase 2 è ovviamente in corso, tante iniziative, tante proposte ovviamente, quali sono secondo lei quelle che saranno determinanti per la ripartenza del settore dei trasporti e della logistica, settore, lo ricordiamo sempre nel corso di questa trasmissione, ma voglio dire, ripeto, non fa male, che è un settore chiave per quanto riguarda l'evoluzione anche di questa crisi in Italia? Io credo che si sente parlare tutti i giorni di questa riaperture, di questa famosa fase 2, come la stanno chiamando. È chiaro che noi non possiamo rimanere indietro rispetto ai nostri competitor, ai nostri competitor dei paesi europei, soprattutto quando il nostro paese è basato molto sull'esportazione, e quindi dobbiamo consentire alle imprese di riprendere la produzione, ovviamente con tutte le salvaguardie per i lavoratori, questo è fondamentale, indispensabile, ma che consenta all'Italia la possibilità e alle aziende italiane di ricominciare a produrre e ricominciare a esportare, perché noi pensiamo che in questo momento ci siano anche, stiano cominciando anche carenze di ordini da parte dei clienti esteri, proprio in funzione del fatto che questa guerra, questo contagio ha coinvolto tutto il mondo e non solo l'Italia, non solo l'Europa. Certo, dopo una prima fase in cui il trasporto italiano e ovviamente anche il mondo della logistica è stato più che impegnato, dopo il lockdown ovviamente c'è stata una crisi anche del mondo dei trasporti, perché come dicevamo prima un conto è portare tutti i prodotti e quindi economizzare al massimo i carichi, un conto è concentrarsi solo sul trasporto alimentare e sanitario. Ovviamente questo ha comportato delle variazioni anche di costi del trasporto. Qual è la situazione al momento secondo lei? Fino al 25 marzo nel mondo del contenitore le cose sono più o meno rimaste abbastanza normali, sono state nella normalità, nel senso che è vero, mancava merce l'importazione, meno contenitori in importazione legati a quello che era successo in Cina appunto col Covid, e quindi arrivavano meno contenitori. Però l'industria italiana ha mantenuto dei trend di esportazione per quello che riguarda il trasporto nei contenitori abbastanza elevato. Dal 26 di marzo si è assistito a due fatti. Uno, sicuramente un grosso calo dei volumi, quantificati nell'ordine, secondo i settori, tra il 25 e il 50%, e soprattutto per ciò che riguarda il trasporto camionistico, sono venute a mancare quelle famose sinergie tra importazione e esportazione che permettevano, nel caso specifico all'autotrasporto, di fare economia sui trasporti. Con la riapertura dei magazzini questa cosa sta ricominciando pian pianino a venire fuori, e di conseguenza riteniamo che così facendo, l'inizio della produzione, si possa ricominciare un trend abbastanza normale, comunque sempre nell'ordine di riduzioni che noi crediamo sia nell'ordine del 20-25%. Su base annuale, suppongo. Sì, esatto. A proposito di questo, noi veniamo da un momento particolare per il settore dei trasporti e della logistica, un momento che già nel 2019 aveva spinto molte riflessioni sulla necessità di in qualche modo riorganizzare questo settore e farlo diventare anche per l'Italia, così come lo è per molti altri paesi, pensiamo ad esempio solo all'Olanda, un settore strategico. Ora ovviamente c'è stato il blocco causato dal Covid-19, quale sarà la ricetta una volta che tutto sarà ripreso, tutto avrà avuto una sua ripartenza, quale sarà la ricetta per rilanciare la logistica italiana? Sicuramente questa situazione darà una bella botta a tutto il settore, nel senso che ci saranno imprese che purtroppo già erano in difficoltà prima, e le difficoltà per loro aumenteranno, soprattutto legato al fatto che anche i timori che hanno le aziende, le preoccupazioni che hanno le aziende legate anche alla mancanza di liquidità, che è un fattore fondamentale per l'attività della logistica. Io credo che la cosa, se possiamo dire, positiva di questa situazione che ha creato il Covid sia quella che improvvisamente abbiamo imparato tutti a gestire le cose col smart working, e quindi facendo in modo di in qualche caso già cominciare una specie di digitalizzazione dei sistemi, e questo sicuramente sarà anche questo un punto per il futuro della logistica. Digitalizzazioni tra settori, agenzie delle dogane, terminal portuale, operatori, trasportatori, questo per consentire una velocizzazione di tutto il sistema, che oggi è ancora molto farraginoso. Ma infatti non a caso uno dei settori in cui si prevede una forte espansione della blockchain, quindi della catena digitale, è proprio quello della logistica, un settore che è segnato da decine e decine di documenti che servono per movimentare le merci soprattutto fra vari paesi, e che quindi da questa fase di digitalizzazione potrebbe avere un beneficio importante. Tuttavia è un settore che trasporta atomi, non bit, e quindi cose reali, e quindi probabilmente poi ci sarà bisogno di qualcuno che fisicamente muova le merci. A questo proposito, lei parlava di una crisi di liquidità delle aziende. Qualche settimana fa c'è stato un accordo fra l'ABI, i sindacati, le principali confederazioni italiane, un accordo legato appunto anche al superamento di questa fase di mancanza di liquidità con gli anticipi ad esempio sulle casse integrazioni. Qual è il vostro giudizio di questo accordo? Ma guardi, per se stesso il nostro giudizio sull'accordo è sicuramente positivo. Diciamo che purtroppo per ciò che riguarda gli interlocutori, che per modo di dire non potevano essere altri, e parlo di Cassa Depositi e Prestiti, SACE e istituti bancari, ci sono tutti questi passaggi, tutte queste istruttorie che credo in questo momento, tenendo conto che anche gli istituti bancari hanno più del 75% dei dipendenti che stanno lavorando da casa, che faranno sì che questa disponibilità di fondi per permettere alle aziende di avere liquidità purtroppo subirà dei tempi abbastanza lunghi. Ci vogliono 60-90 giorni dai tempi che abbiamo visto noi, credo che le aziende non se lo possano permettere. Noi pensiamo che sia una cosa che debba essere assolutamente velocizzata al massimo, perché diversamente senza liquidità, consideri che già molti clienti italiani e esteri hanno chiesto dilazioni di pagamento alle varie aziende legate alla logistica. Uno può anche dilazionare il pagamento se non viene pagato, deve avere i fondi e i soldi per poter pagare il quotidiano, diversamente non certo. Va avanti. E questo è un problema che devono affrontare ovviamente ogni giorno le imprese di trasporto e logistica. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato a questo settore così importante per il nostro paese. Noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Guido Nicolini, presidente di Confetra. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. Collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.